Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Il bello del fine settimana calcistico sono innanzitutto quei tanti gol di ottima fattura che abbiamo visto un po' su tutti i campi. La volée di Stankovic di sabato, una volée di dritto, no? Praticamente, perché ha colpito quel pallone allargandosi, andando a cercare proprio come si colpisce in una volée sotto rete. La rovesciata di De Sena ieri, i destri da fuori di Valdés e di De Ascentis, quella punizione magnifica di Adailton a Napoli. In assoluto per me il primo gol del Catania, una punizione capolavoro a quattro tocchi di prima che andrebbe proiettata al corso allenatori di Coverciano, e complimenti all'allenatore Azzori, perché quelle cose, oltre che ai giocatori che l'hanno eseguita alla perfezione, perché una cosa così non può nascere per caso. E poi sul piano collettivo, certamente la grande partita dell'Inter a Marassi, la migliore in assoluto della gestione Mourinho, che dopo tanti tentativi, quando poteva scegliere, stavolta ha azzeccato la migliore Inter in assoluto, ripeto, della sua gestione, per ragioni di necessità, perché aveva quegli 11, non potendosi più considerare della partita gente come Quaresma e Mancini. C'è molto altro ancora, ma poi c'è il brutto della domenica, che andrei ad ascoltare subito dai contributi vocali ereditati dalla domenica, cominciando da Ranieri. Credo che Rosetti non abbia fatto una gran bella partita, perché non ha visto il rigore di Menez, ha visto il rigore loro, io non lo so, mi auguro per lui che ci fosse, ha buttato fuori Ambrosini e per me non aveva fatto nulla, per cui è stata una partita non giocata bene da parte sua. Questo era quanto dichiarato alle telecamere. Poi c'è una frase leggermente più pesante, che è una vergogna, che ha ripetuto e poi dinanzi invece ai taccuini e alla carta stampata. Le proteste e il malumore soprattutto di Del Neri dopo il pareggio e dopo i danneggiamenti oggettivi di Orsato all'Olimpico. Mi sembra sia il calcio di rigore netto, ma mi sembra che non l'ha visto solo lui, è impossibile, non, per la palla si alza, e poi devo dire anche, se vogliamo essere onesti, non mi ha dato neanche il calcio d'angolo, e quindi vuol dire che secondo lui ha preso la palla Pazzini, se tiriamo fuori quello di Parma uguale, cioè vuol dire, io penso che bisogna avere più equilibrio soprattutto nel decidere delle cose importanti, e devo dire che Cassandola è stata penalizzata in questo avvio di campionato. Le prime, no, non sono le prime per la verità, ma insomma le prime veramente dure polemiche di stagione. Mi è parso di notare una differenza di accenti tra Del Neri e Ranieri, no? Pura disparità di torti subiti, perché quelli subiti dalla Sampdoria nell'ultima, ma anche nella penultima giornata, sono ben superiori a quelli toccati ieri sera alla Roma. La disparità di accenti probabilmente dipende dal fatto che Del Neri per anni è stato al Chievo, e se date un'occhiata a come viene trattato il Chievo domenicalmente, insomma, vi potete fare una ragione del fatto che uno si abitua un po' alla volta. Ranieri ha allenato squadre più forti, gli ultimi 2 anni li ha passati alla Juve, e quindi è evidente che ritrovarsi trattato a quella maniera da Rosetti possa avergli causato un piccolo trauma. Farei notare subito una discreta differenza tra il nostro calcio e il calcio di altrove. Perché? Perché qualcuno avrà visto, avrà saputo, se no ve lo racconto io, cosa è successo in Sunderland-Liverpool. Stiamo parlando di Premier League inglese, quindi di un campionato che equivale alla nostra Serie A, anzi che lo supera certamente per qualità e per un sacco di altri motivi. Un ragazzino ha lanciato in campo un palloncino, che poi era un palloncione di gomma, perché non era così leggero. Questo palloncino è rimasto piazzato nell'area piccola del Liverpool. Quando un giocatore del Sunderland ha calciato, si vede benissimo che il pallone vero, quello da gara, colpisce quest'altro palloncino, cambia completamente traiettoria, reina in porta, non sa più se andare su un pallone o sull'altro. Gol 1-0, risultato finale di Sunderland-Liverpool. Ora, non solo questo gol era da annullare, perché c'è un preciso articolo del regolamento, che dopo vi leggerò, secondo cui qualsiasi elemento estraneo al gioco che entri in campo e che si fermi sul campo comporta la sospensione del gioco immediata. ma Rafa Benitez, allenatore del Liverpool, che causa anche questa sconfitta comincia a vedersela male con la proprietà del Liverpool per l'appunto, ha così commentato: sono cose che capitano, si è trattato di una decisione tecnica, non conoscevo nemmeno io il regolamento vista la stranezza del caso, ma bisogna accettare il verdetto del campo. Ecco, questo, se ogni tanto vogliamo misurare, continuare a misurare la distanza che separa il nostro calcio da altri, questo può essere un buon parametro. Un altro buon parametro certamente per misurarlo è che è uscito l'elenco, con tutte le riserve del caso, ma insomma è uscito comunque l'elenco dei 30 candidati al Pallone d'Oro di questa edizione, e così come era accaduto già nel 1985 non c'è un solo giocatore italiano tra i primi 30 giocatori al mondo. E qualcosa vorrà pur dire, non ce n'è, a proposito della intemerata di Lippi, per esempio, mercoledì sera a Parma, non c'è nessuno né degli 11 che avevano giocato a Dublino né degli 11 che lui ha cambiato e che hanno giocato a Parma, e anche questo qualcosa forse significherà. Tra poco inizieranno i vostri interventi in diretta, come sempre all'800 24 0024 per commentare la giornata. Sentiamo ancora la soddisfazione di un paio di allenatori prima del primo intervallo della puntata, per esempio quella di Leonardo. Non è il fatto di vincere che dobbiamo fare adesso, io credo che la cosa più importante oggi è stato un spirito incredibile. Questo non sono 3 punti per noi, credo che questa è una dimostrazione nostra per noi stessi di grande voglia di tirar fuori veramente qualsiasi cosa in un momento molto complicato. Temperamento dunque, ero leggermente distratto, anche perché insomma mi sembrava una dichiarazione di routine, ero leggermente distratto perché proprio in questo istante l'ANSA ha battuto l'esito dei sorteggi per la qualificazione ai mondiali, cioè delle seconde classificate. È andata maluccio a trapattoni, anzi male, perché ha beccato la Francia, e quindi partita d'andata il 14 novembre a Dublino, ritorno il 18 novembre a Parigi, Irlanda-Francia. Gli altri accoppiamenti sono Portogallo-Bosnia-Erzegovina, Grecia-Ucraina e Russia-Slovenia. Se anche Ranieri, di sempre così corretto, si lascia scappare certe dichiarazioni, siamo proprio messi male, scrive Lori da Milano. Sono d'accordo con lei, Ranieri è sempre stato un esempio di correttezza, soprattutto negli ultimi tempi. Credo sia stato un po' contagiato ieri sera dall'ambiente della Roma, che onestamente di Rosetti non ha grandi ricordi, e lì più o meno la cosa si può anche capire. Se l'allenatore della Juventus fosse Ranieri a quest'ora a Torino, e anche il quotidiano sportivo di Torino l'avrebbe ampiamente crocefisso, beh, questo direi che è nei fatti, insomma, no? Basta avere un minimo di memoria. Un sacco di altri messaggi, adesso vediamo, cercherò di selezionarli, certo, come ogni lunedì, chiedo scusa in partenza, ma non... Certo, non posso pensare di rispondere nemmeno a un decimo di quelli che arrivano. Augusto ha chiamato da Forlì, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Dunque, io volevo dire 2 cose. Una mi ha già preceduto quello con il messaggio, parlando del giornale sportivo di Torino, che non diciamo cosa avrebbe detto se fosse stato Ranieri. E invece come protesta ha detto Juve avanti che Amauri c'è. Vabbè, dopo 8 mesi che non segnava. E la seconda invece, mi è piaciuto molto il pubblico di Genova per come ha sostenuto la squadra, i giocatori stessi che alla fine, dopo aver preso 5 gol, si sono fermati ad applaudire, a salutare. Questo qui sarebbe bello se ci fosse più domeniche allo stadio. Io poi, che sono tifoso dell'Inter, che la squadra fischia anche quando vinciamo 1-0, 2-0, giochiamo male. È verissimo. Quindi, Augusto, questa è una bella osservazione. In effetti, tra le cose belle del fine settimana avrei dovuto mettere, perlomeno se non al primo posto, ma ai primissimi posti, il comportamento del pubblico genovano. Vede, non è un caso forse che il pubblico del vecchio Siena, cioè che il vecchio Siena sia stato fondato dagli inglesi. È stato il primo club d'Italia storico, il calcio italiano è nato a Genova ed è nato col Genova, e la Sampdoria non può aversene male perché allora non esisteva. E mi pare che il pubblico genovano questo lo abbia veramente ereditato, e lo abbia poi saputo conservare attraverso gli anni, che sono ormai parecchi più di 100. Cioè questo attaccamento alla squadra, a prescindere, anzi a maggior ragione nei momenti più difficili. ci è capitato altre volte, no? di elogiare, di levarci il cappello davanti alle tifoserie inglesi che applaudono la loro squadra, per esempio nel momento della retrocessione all'ultima giornata. Beh, insomma, il pubblico genovano che si comporta in quella maniera dopo uno 0-5 per una partita che loro pensavano di vincere, sinceramente, o comunque pensavano di giocarsi alla pari, è un comportamento raro. Proprio da Genova ha chiamato Sergio, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Senta, io volevo fare un ragionamento, sono genovano, ma volevo fare un ragionamento un attimo un po' più sui generis, no? Volevo chiedere questo, cioè premetto che secondo me, per essere intellettualmente onesto, dico che il Genoa aveva ottime possibilità di perdere con l'Inter. Detto questo però, quando i giocatori di una squadra di media levatura come il Genoa, no, diciamo, si vedono negare un rigore come quello su Floccari, io dopo devo dire che l'ho visto, l'ho rivisto, ho sentito i commentatori, non ce n'è uno che ha adombrato un minimo dubbio, quello era rigore tutta la vita. Non pensa che nei giocatori catti qualcosa subentri, di negativo, certo? Subentri lo scoramento fino a prendere 5 pere, Sergio. Io mi auguro che i giocatori del Genoa non ragionino come lei, certamente non Gasperini, che è un saggio, e quindi mi auguro che dopo una batosta del genere nessuno cerchi un alibi così risibile, nel senso che i rigori tutta la vita sono quelli che erano andati al Doria, no? Non vorrei metterla sul piano della rivalità cittadina. Ma sono tre rigori consecutivi da tutta la vita, come li definisce lei, che non danno al Doria: uno su Pazzini contro il Parma e due ieri all'Olimpico, in particolare il secondo. Quel contatto tra Floccari e Stankovic può essere valutato in mille modi, ma è comunque una cosa che accade prima di uno 0-5. Sinceramente, le ripeto, mi auguro che i professionisti del Genoa non ragionino così, nell'interesse loro. Daniele Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo intervenire in merito all'arbitraggio di ieri di Milan sul fallo di Thiago Silva su Nenez, ma non intanto quanto tifoso, ma così a livello generale. Io seguo anche molto il basket e ho l'impressione che generalmente l'arbitraggio del calcio sia molto portato a favorire la difesa più che l'attacco. Uh-huh. Cioè io quando vedo un fallo, per esempio, che avviene in area, mi pongo sempre il problema se lo stesso fallo sarebbe stato fischiato o meno fuori area. Certo. Perché da quello che so il regolamento non è che faccia particolari distinzioni se un fallo avviene in area o fuori. Mentre nel basket, appena uno fa un tiro dentro l'area, sta tirando, proprio in quel momento c'è la massima attenzione sul contatto. E così, quando uno sta tirando in porta, secondo me dovrebbe esserci, proprio per favorire la spettacolarità, dovrebbe esserci lo stesso criterio, secondo me. Sono d'accordo con lei, e invece nel calcio non è così, dovrebbe essere così, ma si è affermata una prassi, non solo in Italia, peraltro, per cui in base alla quale se uno riesce comunque a mantenere uno straccio di equilibrio, il rigore non viene fischiato. Ed è un errore, secondo me, perché se uno calcia in condizioni pesantemente sbilanciate non ha evidentemente il suo tiro la stessa efficacia che potrebbe avere se avesse calciato senza la carica avversaria. Ora, se la carica avversaria è una carica di spalla, è una spinta leggera, se è invece un intervento più rude, dovrebbe essere fischiato il rigore. Chissà perché è invalsa questa prassi che giustamente lei dice non è da regolamento. A metà campo sicuramente quel fallo, se anche Menes calciava il pallone a metà campo, cioè cercando un compagno, un passaggio, un assist, sicuramente Rosetti avrebbe fischiato il fallo di Thiago Silva. Fabri scrive da Ornago: se lei considera il pallone d'oro una buffonata come ogni anno ripete, deve considerarlo tale anche quando ne valuta le candidature. Buffonata non mi sono mai spinto, certe volte mi capita di pensarlo, ma non credo di averlo mai pronunciato. Detto questo, se su 30 candidature non c'è un italiano, beh, insomma, potrà essere magari una buffonata, oppure può essere un segnale, no? una tendenza. Io in questo caso opterei per la seconda. Le perplessità sul pallone d'oro, sul fatto che è diventato un fenomeno gigantesco e molto commerciale, ci possono essere, ma non può essere per ragioni commerciali che viene tagliato fuori il calcio italiano, mi pare, no? visto che tra l'altro alcuni dei papabili giocano in Italia, Giulio Cesare, Toma, Icon, Diego, Ibrahimovic ha giocato fino a ieri, quindi 5 candidati ci sono, peccato che siano, che non siano di scuola. Ha chiamato sulla linea 3, mi pare, Costantino da Aosta, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo dire due cose molto brevemente, una sugli arbitri e una sui replay. Allora, sugli arbitri mi sembra che ci sia una tendenza eccessiva ad assecondare il lamento degli allenatori, nel senso che le interviste partono già dal punto di vista del giornalista con una domanda volta a far emergere la polemica arbitrale, per cui è facile che poi si riportino dichiarazioni sui giornali anche vistosissime o che si parli poi tutta la settimana di quello, perché l'aspetto tecnico della partita, tipo gli errori che ieri ha fatto la Roma, che quella partita ce l'aveva in mano e la doveva vincere, non se ne è parlato, si parla solo degli errori o presupposti tali dell'arbitro. Non si è parlato del fatto che Burgis, ad esempio, un'entrata del genere, che obiettivamente il rigore lì ci può anche stare, un'entrata del genere non la vai a fare, no? E questo mi sembrava un po' una cosa che si ripete sempre, proprio una critica ai giornalisti che mi sento di fare. Sì. E prego. No, dica l'altra, perché, L'altra è sui replay. Trovo che si facciano troppi replay al rallentatore. E una cosa che secondo me sarebbe interessante, soprattutto per certe azioni, per certi gol, sarebbe vedere il gol da un'altra angolazione, ma a velocità. Solo a velocità normale. Guardi, su questa seconda io farei una battaglia addirittura, perché il replay è un modo di falsare la realtà, e non è affatto vero che fa meglio apprezzare un'azione, non la fa meglio apprezzare per la semplicissima ragione che la falsa. Io sono, la penso esattamente come lei su questo. Sul primo punto la penso quasi del tutto come lei, è vero però che qualche allenatore particolarmente corretto, sempre corretto, come per esempio Del Neri, beh, insomma, se Del Neri ha parlato della partita, ha fatto la sua brava disamina, eccetera, che poi glielo chiedano o non glielo chiedano, quando non ti danno almeno un rigore su due situazioni così clamorose nel finale di partita, proprio negli ultimi minuti, anzi uno forse era già anche iniziato il recupero, beh, insomma, credo che sia assolutamente umano, no? che ti scappi, indipendentemente dal fatto che qualcuno te la inneschi o meno la protesta. Da Varese ha chiamato Giuseppe, buongiorno. Sì, salve, io sabato sera ero a Torino a vedere la partita, come faccio spesso ultimamente, ma volevo sapere cosa pensa lei della munizione dopo 50 secondi a Sissoko, se non le è sembrata un po' esagerata, e comunque Rizzoli non mi sembrava tranquillo in quel momento lì. Volevo sapere solo questo, visto che ero lì, e sinceramente a munire un giocatore così, che ha un ruolo così importante, lo ha limitato per tutta la partita. Ma io non so se l'abbia limitato o meno, l'ha vista così, la simulazione mi sembrava abbastanza, non dico sputorata, ma insomma mi sembrava abbastanza accentuata. Si è sempre detto, no, che le partite durano 90, anzi ormai durano 95, 96, 98 minuti tra recuperi del primo e secondo tempo, e quello che accade al primo secondo è quello uguale a quello che accade all'ultimo. Ogni tanto si sente dire come si fa a dare un rigore dopo due minuti, come si fa a darlo a un minuto dalla fine, come... A maggior ragione si può dare una munizione presto, se uno ravvisa che ci sia una irregolarità grave. Piuttosto, Stefano da Brescia, la squadra è la stessa, l'argomento è diverso, ma mi sembra interessante questo messaggio. Dice: ma Stankovic è quello che gli ultra della Juve ostracizzarono due anni fa, complimenti, perché questo è quello che succede quando la campagna acquisti la fanno le curve. Questo mi sembra un motivo di riflessione più interessante rispetto a una munizione che, insomma, va e viene, anche se poi può pesare sulla testa di un giocatore. Torniamo con altri ascoltatori già in attesa, dopo una perlustrazione delle mail arrivate nel frattempo, anche del blog, pensate cosa mi tocca fare alla mia veneranda. E, per esempio, una mail di Roberto, tifoso gialloblu, che dice: ma il Parma, quando ci parla del Parma? Va bene, il Parma, il Bari, che sono le squadre che stanno certamente viaggiando, tra le squadre che stanno viaggiando al di sopra di quanto si immaginava. Il Parma mi stupisce fino a un certo punto, perché le squadre di Guidolin partono forte, cara Roberta, poi non sempre arrivano con altrettanto sprint a fine stagione, questo lo insegna la carriera di Guidolin, ma insomma per il momento le cose, poi uno può sempre magari ritoccare qualcosa nel corso degli anni. Il Bari sta giocando anche un calcio molto molto interessante. Poi ieri gli è girata davvero tutta giusta, soprattutto nel finale, ma è una squadra coraggiosa e, trattandosi di due neopromosse, meno male che qualcosa di nuovo ogni tanto si riesce a vedere. Altro Giro d'Italia: Varese, Belluno, Bologna, Livorno, Milano. Cominciamo da Varese con Marco. Buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Senta, la mia considerazione magari farà indispettire i più, però io la vedo in questo modo. Spesso si sentono dopo le partite dichiarazioni di alcuni calciatori, eccetera, che magari per fare un po' all'inglese, diciamo, dicono: beh, però l'errore dell'arbitro ci sta, perché magari io ho sbagliato un gol davanti alla porta e quindi un errore. Però io la vedo in modo diverso, ovvero il calcio è un gioco, o presunto tale, fatto di 11 contro 11. Quando l'errore arriva da un attaccante piuttosto che da un Thiago Silva come ieri sera, favorisce certo una squadra, ma è sempre nel contesto dell'11 contro 11. Se l'errore viene fatto dall'arbitro, favorisce una delle due, e l'arbitro è una persona in più a tutela del gioco, che dovrebbe svolgersi, come già detto, 11 contro 11. Cosa succede però adesso? Non è che voglio, diciamo, dire che l'arbitro lo fa apposta o qualcosa del genere, però in un calcio veloce come quello di adesso, io ho 27 anni, ho giocato a calcio prima di farmi male a un ginocchio, e dico che il calcio adesso è velocissimo ed è difficilissimo da giudicare per gli occhi di un arbitro o l'occhio proprio umano fatto di 3, 4, 5, 6 persone. Di conseguenza un aiuto minimo dato dal gol non gol, dalla telecamerina, che visto istantaneamente da altre persone al di fuori, quindi non dico una moviola in campo, ma quasi, ma fatta su azioni ben decise, quindi studiato prima a tavolino, dovrebbe essere una soluzione giusta per il calcio di adesso, anche a tutela ad esempio di tutti i soldi che vengono investiti nel calcio scommesse, di tutti i soldi. Beh, insomma, che vengono, se dobbiamo preoccuparci delle scommesse, allora caschiamo abbastanza male. Cioè, questo è un segno dei tempi. Una volta si diceva a tutela, fino a non molto fa, insomma, si diceva a tutela dei grandi investimenti che vengono fatti nel calcio, adesso dobbiamo tutelare anche le scommesse. E poi tutelarle come? Lei pensa che una telecamerina in più, l'aiutino, ma è che, se non ho capito male, un ti vedo e non ti vedo, con l'aiutino ti vedo e non ti vedo, le scommesse le orientiamo come? Scommessa era una piccola provocazione. Ma quali certezze ci dà la telecamerina che non so, mi dica ieri sera, visto in tempo reale o visto la telecamerina, quello di Burdisso è rigore o no? È quello che dico io. Allora cosa, Marco, cambia? Che differenza allora, fa? Ma nessuna telecamerina, Marco, le darà mai la certezza in più o in meno. Quello che il calcio deve trovare con la massima urgenza possibile è il gol non gol, questo sì. Capire una volta per tutte se un pallone, trovare il modo di capire una volta per tutte se un pallone entra in porta o meno. Quello sì. Ma quello che volevo dire era. Sì, ma quello che volevo dire, però sono 4 minuti, Marco, lo dica in fretta, però, per cortesia. Ma nel football NFL, ad esempio, quando l'evidenza. Ma nel football e nel. Nel football americano, le dico, quando non c'è l'evidenza, sì, rimane la decisione arbitrale. Ma sì, ma anche nel bridge ci sono delle regole interessanti, però Marco, il pallone è leggermente diverso, non ci sono, e quanto tempo passiamo a cose, e quanti episodi esaminiamo, ma no, non possiamo provare invece a sperare che un giorno Orsato no, e chi per lui e tutti gli altri non riescano a migliorare anche dal punto di vista insomma, di quella che Marotta continua a chiamare la sudditanza psicologica, e lo ha chiamato, l'ha chiamato, definito tale ancora anche stamattina. Collina si infuria quando sente questa cosa, però non può essere un caso se sempre, ancora oggi, continua ad esserci un'attenzione assoluta per i diritti delle grandi squadre e non c'è altrettanta attenzione per i diritti delle medie o delle piccole. Questo è il problema che nessuna telecamerina risolverà mai. Savino ha chiamato da Belluno, però da qui, dato che Marco ha portato via 4 minuti, adesso bisogna stringere. Savino, dica, buongiorno. Certo, stringeremo tantissimo. Stringe, allora, stringe. Primo, non sono d'accordo con il predecessore, perché è bello anche perché ci sta qualche volta l'errore arbitrale. Chiaro, so, che bisogna limitarlo, però è una caratteristica anche del gioco, del calcio. C'è, certo, sempre stato l'errore, c'è cioè da quando è nato il calcio, quindi perché ora è chiaro che bisogna cercare lo strumento per migliorare la cosa. Secondo, secondo me un po' più di severità dal punto di vista arbitro, negli atteggiamenti dei giocatori, nei rigori anche in aria, farebbe bene anche allo spettacolo, ci sarebbero più gol. Anche 3 rigori a partita, se ci fossero, io non riesco a capire per quale motivo in caso di dubbio, in caso di certezze si prendono determinate decisioni e non si può, diciamo, regolare la classe arbitrale dicendo che al minimo intervento in aria che si vede scorretto si fischia il calcio di rigore. E questo metterebbe sicuramente lo spettacolo, secondo me. Certo. Più gol, più gente che va allo stadio, più partite belle da vedere. E poi ancora? Non era l'intervento breve che compensava, Savino? Dica, dai, e poi, rapido però. Ah no, non lo dice più, spero si sia offeso. È solo perché c'è una lista d'attesa interminabile, insomma, sarebbe carino, no? Se partecipassero più persone, però con un po' più di sobrietà. Francesco da Bologna, buongiorno. Buongiorno, salve. Senta, le volevo parlare a proposito della Juventus. Sinceramente l'atteggiamento di Ferrara nelle ultime partite mi ha lasciato abbastanza perplesso, perché giocare con un trequartista e 2 punte più un centrocampo a 3 composto da 2 incontristi che sono puri come Paulsen e Camoranesi, in alcune circostanze ha ricoperto anche il ruolo di incontrista, e sbilancia un po' troppo, penso, la squadra, e nello stesso tempo anche gli attaccanti, che sono comunque attaccanti di tutto rispetto, non hanno i rifornimenti adeguati per poi concludere ed essere pericolosi in fase di realizzazione. E volevo dargli una sua considerazione. Ma non le so dire, sinceramente. Io credo che dipenda soprattutto dal momento di forma dei giocatori più che dal modulo. Poi probabilmente chi sosteneva che Ferrara è ancora un po' tenero aveva qualche buona ragione, però mi sembra che Mauri continui a non prenderla, o a prenderla in maniera comunque a non incidere, ecco, questo intendo dire. Certe scelte, perché per esempio l'altra sera Trezeguet che entra solo in quegli ultimi istanti mi è sembrata un pochino tardiva. La scelta tra un centrocampo che abbia un po' più di fosforo, un po' più di muscoli, è sempre una scelta non facile. Però è tutta la squadra che sta funzionando abbastanza poco, abbastanza male. Grosso qualitativamente sta dando poco o nulla, sto dicendo. Dietro la difesa è più fragile di quello che si pensava, e quindi è un po' tutto insieme mi pare che funzioni poco. Lei non diceva queste cose del pubblico genovano dopo Genoa-Fiorentina lo scorso anno? Beh, lo credo bene, non lo dicevo, si erano comportati in una maniera veramente incivile gli ultra alla fine, ma è successo tante altre volte, temo purtroppo succederà ancora. Nei confronti della loro squadra, dicevo prima, nei confronti della loro squadra dopo 1-0-5 hanno mostrato la loro probabile cultura inglese, che hanno spugnato direttamente dai fondatori, perché così si comportano gli inglesi. Questo non vuol mica dire che sia una tifoseria ideale o da additare ad esempio da altri punti di vista. Spesso il loro tifo è un po' eccessivo, per esempio in casa spesso è un po' tanto tribale nei derby con la Sampdoria, ovviamente ben imitati dagli altri. L'altra sera hanno tenuto un comportamento che in Italia è praticamente introvabile, nel senso che a qualsiasi latitudine e in qualsiasi situazione di classifica e con qualsiasi palmarès, cioè dalla Juventus al Rocca Cannuccia, se la squadra perde in casa 5-0 bisogna vedere se si limitano a fischiare o invadono il campo o vanno a rigare le macchine dei giocatori alla ripresa degli allenamenti. Questi che applaudivano in piedi, così contenti e convinti negli ultimi minuti, ma insomma per l'intero secondo tempo, mi è sembrato un comportamento da segnalare. Tutto qua, perché sennò mi scappa per la frase di Maradona un giorno o l'altro. Paolo da Livorno, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Sì. Senta, no, io mi volevo ricollegare un attimino all'Inter. Concordo con quanto ha scritto sul blog, sui suoi articoli, però volevo chiedergli questo: siccome ogni tanto con la sua classe qualche stilettata a Mourinho gliela lancia, volevo sapere se poi effettivamente nei momenti decisivi vedo che l'Inter riesce a essere molto efficace, lui riesce insomma a tirare il meglio dai giocatori che Mari ha a disposizione, o fa giocare poco, vuoi per guai fisici, vuoi per motivi tattici. Volevo sapere se, insomma, alla fine forse il titolo di Special One Mari un qualcosa vuol dire, ecco, se Mari è stato denominato in questo modo. Per me no. Un'ultima cosa, siccome sono un ascoltatore, diciamo, da un anno che vi seguo, volevo sapere un suo personale parere, un confronto fra Mancini e Mourinho come tecnico. E ci prendiamo un'altra oretta di trasmissione, Paolo, anche per questa risposta. Il ripasso di storia affidato come sempre a Nicola Filippone. Sembra ieri. 19 ottobre 1958. Chiudendo al secondo posto il Gran Premio del Marocco, il ferrarista Mike Hawthorn si laurea campione del mondo di Formula 1. È il primo pilota britannico a riuscire nell'impresa. Hawthorn conquista il titolo iridato vincendo una sola corsa, mentre Stirling Moss, secondo in classifica, aveva vinto 4 Gran Premi. All'ascoltatore livornese, Mancini ha una squadra molto più debole di questa, cioè era già una squadra forte, molto forte, superiore alla concorrenza, ma una squadra più debole di questa, e quindi credo che questo renda abbastanza difficile il paragone. Ripeto, l'altra sera Mourinho ha schierato un Inter perfetta a Genova, probabilmente, anzi certamente la migliore che si sia vista in quasi un anno e mezzo di gestione. È la prima volta che non può scegliere, è la prima volta che si trova in stato di necessità. Ecco, dalla necessità, ma spesso accade, non, accade anche alle persone normali, non soltanto agli speciali, che non avendo più possibilità di scelte, la necessità ti fa trovare la strada ideale, anche se poi adesso bisognerà dirlo, se la strada ideale dovesse essere confermata magari in trasferta nelle partite più teoricamente più complicate, bisogna poi trovare il modo di dirlo a Eto'o, Milito e Balotelli, che ne gioca uno solo alla volta, perché questo poi potrebbe essere un problema. Ha chiamato Fabio da Milano, buongiorno. Buongiorno Garanzini, le scelte che faceva l'anno scorso, così vado veloce, erano quelle di schierare Ibra e poi altri 10, certo, tanto per dire decisivi. Allora, grazie Garanzini, vado veloce. Pallone d'oro impossibile, perché se la squadra più forte negli ultimi due anni è l'Inter e non ha un italiano, non può esserci un italiano nella classifica pallone d'oro. Quando lo è stata, adesso non sono di parte, la Juve, non sono tifoso della Juve, aveva Buffon e Cannavaro che si giocavano il pallone d'oro, ad esempio. Ultima cosa, Garanzini, poi la saluto. Orsato, certo che può migliorare, anch'io spererei che Molinaro migliorasse, però voglio dire, non possiamo avere 11 Collina e ne possiamo avere 11, mi lasci dire, Roberto Carlos dei tempi migliori. Certo, Molinaro è diverso, insomma, da Roberto Carlos, ho paura anch'io. Paura anch'io, Fabio, però mi sembrava che, cioè, mentre Molinaro già a prima vista, insomma, ragazzo serissimo, professionista perfetto, un impegno straordinario, eccetera, però insomma, anche oltre all'efficacia, anche l'occhio vorrebbe la sua parte, no? Mi pare di capire, seguo più o meno la sua valutazione, insomma, diciamo che si capisce grosso modo a prima vista. Invece mi pare che Orsato, soprattutto lo scorso anno, avesse mostrato qualità notevoli, tant'è vero che sta per diventare internazionale. Ecco, uno che fa che arbitra una partita come quella di ieri, perché poi non sono stati gli unici errori, i due nell'area di rigore laziale, è inquietante, e anche perché partirebbe da basi teoricamente superiori, a prima vista superiori rispetto a quelle di Molinaro. Un fiorentino, Stefano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Visto che si lamentano tutti, lamentiamoci un po' anche noi da Firenze, che siamo sempre polemici. Allora, via, giusto velocemente, il gol di Gilardino contro la Lazio, va bene, non ce l'hanno dato. Poi ci sono tifosi della Juve che si lamentano di Sissoko qua ammonito dopo due minuti, quando Felipe Melo tira una gomitata, neanche ammonito. Il gol di Vargas annullato non si sa per quale motivo. Noi non protestiamo mai, fair play, però nessuno mai ci considera. Quindi un po' di polemica l'aggiungiamo anche noi, tanto la fanno tutti, la possiamo fare anche noi. E un'altra brevissima considerazione. Facciamoci riconoscere tutti, sì. Non lo vince né la Fiorentina né la Sampdoria, però perlomeno fateci giocare alla pari, almeno quello, no, niente di più. Non lo vinciamo noi né loro lo vincerà l'Inter perché è proprio più forte di tutti, però fatecele giocare alla pari perlomeno. Sì, grazie a tutti. Grazie a lei Stefano, è un'invocazione che insomma in questo momento fatta la Sampdoria ha un titolo, ha un senso, fatta la Fiorentina mi sembra meno. Pasquale da Salerno, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io niente, da tifoso juventino volevo fare un'osservazione un po' per capire chi è che fa poi effettivamente la campagna acquisti alla Juve, se sono gli allenatori che suggeriscono i giocatori o è proprio diciamo la dirigenza che perché a parer mio diciamo, hanno fatto anche degli errori credo insomma anche da incompetenti, perché dare per esempio Zanetti alla Fiorentina mi sembra che hanno dato per forse pochi spiccioli. Cioè, volevo capire qual è il risultato diciamo, da loro ottenuto. È vero, hanno preso anche dei buoni calciatori come Felipe Melo, come... però non è che abbiano risolto il problema dando Zanetti e Marchionni alla Fiorentina. Questo diciamo, forse è solo l'ultimo degli errori, di una serie di errori. Devo riconoscere che effettivamente Ranieri anche a me non è che piaceva molto, però obiettivamente insomma ha portato più risultati forse con quel poco diciamo di quei pochi calciatori che aveva a disposizione di qualità è riuscito ad ottenere dei buoni risultati. I tifosi della Juve forse questo lo dimenticano. L'hanno dimenticato molto presto, se per quello, opportunamente sobillati da qualcuno e da qualche organo di stampa che naturalmente ha trovato poi la soluzione ideale per il prosieguo. Io però ci andrei un po' pianino a questi, su queste valutazioni già così definitive a metà ottobre, no? Io auguro a Cristiano Zanetti, ma gliel'auguro da 10 anni, tanta salute fisica, atletica, perché sarebbe ora che riuscisse a giocare un campionato intero al suo livello, visto che si tratta di un signor giocatore. Però insomma l'esperienza insegna che Cristiano Zanetti se a ottobre non ha ancora avuto un infortunio, è una stagione abbastanza anomala. Ora gli ripeto, lo dico anche per esorcismo nei suoi confronti, perché tra l'altro è davvero un soggetto molto, un centrocampista molto ma molto interessante, di grande valore. Però le grandi in cui ha giocato alla fine l'ha sempre lasciato andare un po' dalla disperazione, no? Dalla disperazione per la ripetitività dei suoi infortuni. Mentre Felipe Melo è il perno del centrocampo, è uno dei due perni del centrocampo del Brasile. Del Brasile, non di una squadretta di lì. Quindi insomma, a metà ottobre la situazione è questa, che Zanetti fa un figurone nel confronto diretto con Felipe Melo e questo è un dato oggettivo, bastava avere gli occhi per vedere. Poi, visto che le operazioni non si fanno per 3 mesi, ma si fanno per anni, può anche darsi che poi le cose cambino andando avanti. Da Olbia ha chiamato Tommaso, poi ci salutiamo. Dica Tommaso. Io volevo intervenire su, sono un tifoso juventino, volevo intervenire sulle sostituzioni di Diego. Io insomma, guardando attentamente la partita ho notato questa cosa, che anche se non ha brillato molto Diego nelle 3 volte credo che è stato sostituito, ho notato che quando esce Diego poi costantemente gli attacchi della Juve è come se andassero a impattare contro il muro difensivo delle squadre avversarie, e secondo me perché Diego anche quando non brilla ha comunque una qualità, cioè quello che almeno un giocatore lo salta, quindi secondo me crea quasi sempre superiorità numerica, magari non fa il tocco di classe finale che risolve il risultato, almeno l'ha fatto con la Roma, non l'ha fatto nelle altre partite. Tommaso, io con l'unica eccezione di quella partita dell'Olimpico contro la Roma, più vedo Diego e più ho nostalgia di Del Piero, detto tra noi. E chiuderei qua con i saluti e i ringraziamenti a Rudy in regia, a Rudy perché ieri sera a Milan ha finalmente rivinto, a Flavio Suardi in redazione e buon pomeriggio a tutti. A tempo di sport.